Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Anche oggi dedichiamo l'appuntamento con la salute all'emergenza coronavirus. In linea con noi la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia all'ospedale Sacco Università di Milano. Professoressa Gismondo, buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa Gismondo, facciamo subito il punto della situazione. Sì, guardi, io aprirei con una frase della collega che stimo sempre, che cito, la collega Ilaria Capua, che dice, le chiedono, è preoccupata? E lei dice, preoccuparsi non serve, non sono preoccupata, anzi, non è vero, sono preoccupata, preoccupa la paura perché porta alla psicosi. E parto da qua perché il vero rischio che adesso corriamo è quello che gli incoscienti che sono fuggiti da Milano informati, peraltro non ufficialmente, della zona rossa, e sono fuggiti da Milano e sono andati al sud, adesso ci faranno sentire la conseguenza di questa loro migrazione, perché infetteranno il sud, e là sarà veramente poi un guaio sanitario importante. Lo dico perché sono stata la persona che, fra le tante voci assolutamente competenti o con altra, magari un altro pensiero, tutti rispettabili, io sono stata la più tranquillizzante. Ebbene, continuo e confermo il mio comportamento e atteggiamento, perché purtroppo assistiamo a comportamenti di incoscienza sociale che sono oggi il vero problema. Detto questo, torniamo ai numeri che sono certamente preoccupanti dal punto di vista di organizzazione sanitaria, ma non sono assolutamente la peste manzoniana, perché i numeri ci dicono che addirittura noi, e ripeto i dati che ieri Gianni Rezza ha detto alla fine della conferenza stampa giornaliera del commissario Borelli sulla situazione, ha detto, se stratifichiamo per età abbiamo tassi di letalità più bassi della Cina. Noi abbiamo una popolazione molto anziana e quindi l'età media dei decessi è superiore agli 80 anni, e questi dati, malgrado si citi il singolo caso del giovane in terapia intensiva, eccetera, che sono tutte cose da tenere in attenzione, però ci conferma il fatto che, ahimè, non è certo una cosa alla quale noi assistiamo con gioia, ahimè, le fasce colpite sono le più deboli, anziani che soprattutto hanno altre patologie gravi, o meno anziani con altre morbidità, cioè con almeno 2-3 patologie. E questo deve indurre non a sentirci esenti dal rispettare le normative emesse dal Presidente del Consiglio per il contenimento del virus, anzi ci deve sentire responsabili per proteggere queste fasce deboli. Professoressa Gismondo, le mascherine che hanno diviso la comunità scientifica, metterle, non metterle, chi, come e quando, ma soprattutto il messaggio che emerge in questi ultimi giorni è chi le indossa deve indossarle in modo corretto. Professoressa Gismondo. Beh, continuiamo a dire che le mascherine dovrebbero essere indossate da chi ha seppur una minima sintomatologia, o da chi ha un contatto con un malato, anche di altre patologie, perché è una fascia debole, con gli anziani, massima precauzione. Deve indossarlo chi opera ovviamente all'interno di una struttura sanitaria, dove la probabilità di avere più contatti anche con positivi, pauci sintomatici ma positivi infettanti, è alta. E ovviamente chi volesse comunque indossarla, noi non possiamo proibirlo. Certamente. Come si fa? Deve farlo correttamente, se no è inutile. La mascherina deve coprire interamente naso e bocca. Non bisogna in continuazione, perché si parla con una persona, che è il peggio che si possa fare, abbassare la mascherina, perché quello è il momento di massimo contagio mentre parliamo. Non mettere in continuazione le mani alla bocca sistemando la mascherina, perché portiamo tutto ciò che abbiamo nelle mani verso la nostra cavità orale, e mantenerla, se decidiamo, ben allacciata, senza movimenti di indosso, non indosso. Se decido di indossarla, quando vado in pubblico e la voglio indossare, si mette bene una volta, si sta attenti che abbia perfetta tenuta naso e bocca sino a sotto il mento e si porta avanti. Si utilizza una sola volta, ci sono le mascherine usa e getta. Sì, usa e getta, e quindi questa è buona norma, se no ci rimettiamo sulla bocca una mascherina che ha filtrato virus ma anche batteri che possono essere nocivi. Professoressa Gismondo, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Ce la faremo? Assolutamente sì. Uniti ce la faremo. Tutti responsabili a mettere il virus alla porta. Grazie professoressa, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Bene, per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melug. Vi auguro una buona giornata. Un saluto da Nicoletta.